quando sono le 8:52 cambiamo pagina e parliamo di una questione che avete sollevato voi, ascoltatori, anzi, soprattutto un'ascoltatrice, una nostra abbonata, Alessia Belgioioso, che è al telefono in questo momento. Pronto, Alessia? Sì, pronto, buongiorno a tutti. E tu abiti nella zona di Via Berletta e avete denunciato come comitato che un'azienda che nei paraggi separa materiali ferrosi, l'azienda di Gironi Francesco, farebbe un rumore insopportabile. A segnare un punto a vostro favore sarebbe stata addirittura l'ARPA. Ci puoi spiegare un po' meglio? Sì, finalmente l'ARPA è venuta, dopo due rilievi che ha effettuato appunto nella zona, è riuscita a emettere una relazione in cui afferma che in effetti il rumore è oltre la soglia dei decibel consentiti per legge. Tuttavia il problema non si limita soltanto al problema appunto di tipo acustico, ma questa è un'azienda che tratta rottami di tipo ferroso e riciclo anche di rifiuti di tipo batterie esauste, ed è un'azienda quindi che è stata classificata come insalubre di prima categoria. Quindi noi adesso ci siamo concentrati soprattutto sul problema acustico, perché è la prima cosa che impatta fortemente sulle nostre vite. Iniziano a lavorare alle 4 di mattina accendendo i camion e tutto il giorno movimentano i materiali, quindi ovviamente la prima cosa che salta all'occhio, che dà più fastidio. Però in realtà il problema è anche un altro, il fatto che noi molto probabilmente respiriamo anche polveri di ferro, alluminio, infatti sui nostri mobili troviamo delle polveri che brillano, e questo un po' ci ha inquietato, per cui ovviamente andremo avanti e cercheremo di, il nostro obiettivo fondamentale è quello di delocalizzare questo tipo di azienda. Perché proprio non è compatibile con le residenze che ci sono intorno, anche perché per di più l'azienda è proprio vicinissima, a meno di un metro dalle nostre abitazioni. A sostenere quindi la vostra tesi, che da quanto tempo portate avanti comunque queste proteste contro appunto la situazione che vi trovate a vivere? Ah, questa è veramente una cosa che si protrae da una quindicina d'anni. Il discorso è che inizialmente le denunce sono state portate avanti da singoli cittadini, ancora nei primi anni non era stato creato questo comitato. Poi adesso finalmente abbiamo messo insieme le nostre volontà, abbiamo deciso di combattere in maniera più seria e fattiva, e quindi abbiamo deciso di creare questo comitato che, come prima azione, il 3 agosto ha organizzato e indetto un incontro pubblico a cui peraltro ha partecipato anche l'azienda Gironi con una sua consulente, dove appunto c'è stato un dibattito serrato in cui abbiamo affermato questa volontà appunto di agire nel senso di trovare un luogo per appunto poter delocalizzare l'azienda. Peraltro, cosa dicono dalla Gironi, visto che comunque c'era anche una responsabile dell'azienda? Esatto, loro ovviamente sono abbastanza sulla difensiva. Però sembrerebbe che siano anche interessati alla loro delocalizzazione. Infatti la consulente ci diceva proprio che lei continua a tentare di trovare un luogo adatto per potersi spostare, e ha affermato durante questo incontro che i problemi più gravi per riuscire a effettuare la delocalizzazione sarebbero stati incontrati con le istituzioni, con gli organi pubblici che loro dicono hanno comunque reso sempre più difficile questo tipo di soluzione, in quanto anche il piano regolatore della città non prevede delle zone adatte a questo tipo di lavorazioni. Noi come comitato ci siamo detti disponibili a lavorare in maniera sinergica, cioè quindi insieme anche alla Gironi. A collaborare anche, quindi insieme alla soluzione di questo problema. Certo, senza dubbio. Noi il primario interesse è quello, quindi di riuscire a trovare insieme una soluzione. Per cui siamo assolutamente disponibili a incontrarci anche insieme a Gironi con le istituzioni e trovare una soluzione. Avete già fissato qualche appuntamento? Aspettate un attimo di finire le vacanze. Ancora no, aspettiamo intanto di avere un riscontro da parte della Gironi in tal senso, perché ovviamente adesso noi abbiamo parlato con un rappresentante, con un consulente. Il consulente immagino dovrà farci sapere poi il punto di vista effettivo della proprietà dell'azienda, e dopodiché sicuramente agiremo in modo da riuscire a fissare questo incontro anche con le istituzioni, e che speriamo di poter realizzare appunto dopo la stagione estiva, quindi presumiamo intorno ai primi di settembre. L'ARPA comunque ha inviato anche a vostro supporto in parte, quindi una lettera, un'informativa in cui, all'indirizzo del Comune di Bologna, in cui vengono indicati appunto i superamenti del 50-60% dei limiti previsti per legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico, e chiede di trovare e propone appunto dei provvedimenti amministrativi a carico dell'azienda. Quindi è anche l'interesse dell'azienda evitare in futuro di incorrere in queste situazioni. Certo, sì, senz'altro. L'ARPA finalmente ha attestato in maniera ufficiale la problematica esistente, quantomeno dal punto di vista acustico, del rumore. Quindi attendiamo che un'azione positiva da parte del Comune. Il problema è che probabilmente l'unico lo strumento che verrà utilizzato dal Comune sarà quello di emettere un'ordinanza che imponga all'azienda la costruzione, pensiamo, di barriere fonoassorbenti. Tuttavia noi faremo presente al Comune sicuramente che quella non è una soluzione definitiva, non può esserlo. Ci sono già in programma delle prelievi invece per quanto riguarda gli inquinanti, o comunque gli inquinanti non acustici, quindi prelievi di campioni, di acqua, di terreno? Dunque, ci stiamo muovendo su tutti i fronti, per cui adesso mi riservo di attendere prima di dare una risposta in tal senso. Però speriamo che questo accada presto. Va bene, noi ti chiediamo di tenerci informati, così noi potremo informare a nostra volta gli ascoltatori. Senz'altro, anzi, vi ringrazio molto dell'interessamento. Grazie a te, buona giornata e buona fortuna. Grazie.